Questa edizione si concentra su tre elementi. Il primo chiaramente è un'area geografica che quest'anno abbiamo scelto di osservare, che è quella del Mediterraneo. Quindi abbiamo artisti provenienti da 7 paesi che si affacciano sul Mediterraneo: Italia, Grecia e Spagna, Marocco, Tunisia, Siria e Iran. Iran non si affaccia propriamente sul Mediterraneo, comunque è un paese che in qualche modo influenza quell'area geografica, la zona, la sponda sud del Mediterraneo. E quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è ciò che emerge da queste scene, dalla scena della sponda sud del Mediterraneo, ma non solo, che è la dimensione, la valenza politica che la danza ha assunto in quei contesti, e quindi quanto la danza in rapporto allo spazio pubblico abbia una sua valenza, in alcuni casi proprio come resistenza civica e in difesa di alcuni valori di democrazia e libertà, dall'altra invece come forma di rivendicazione. E faccio un esempio per tutti: immaginatevi cosa significhi performare in uno spazio pubblico in un paese come l'Iran, dove la danza è un'arte considerata immorale e per questo le norme religiose la proibiscono, e quanto in quel contesto, la cultura di quel contesto, le norme religiose di quel contesto limitino fortemente l'esposizione pubblica del corpo, in particolare delle donne, nello spazio pubblico. Quindi per questo è per avere un esempio della valenza politica che la danza assume nello spazio pubblico. E il terzo elemento appunto è il rapporto con lo spazio pubblico, con la dimensione della città e dell'urbanità. E questi sono i tre elementi che in qualche modo possiamo ritrovare in questa edizione del festival. Ecco, appunto, ho fatto un'introduzione parlando di quotidianità, quindi di spazi. Quali sono i luoghi della kermesse? Dunque, quest'anno utilizziamo 14 differenti luoghi, tra 13 a Bologna, e abbiamo luoghi che sono parte costitutiva del patrimonio materiale, artistico e culturale, non solo di Bologna, ma direi dell'umanità, perché quest'anno è l'anno europeo del patrimonio culturale, e quindi abbiamo già utilizzato la sala degli quadreria di Palazzo Peppoli, la Pinacoteca nazionale, utilizzeremo appunto Cappella Farnese, utilizzeremo il Chiostro di San Martino e poi l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti, l'Orto Botanico di Bologna, le piazze, Piazza San Francesco, Piazza del Nettuno e tanti altri luoghi della città. Quindi luoghi del centro storico che sono parte del patrimonio materiale della nostra identità culturale, ma che sono un elemento importante, e attraverso questo andiamo ad analizzare ciò che è il patrimonio immateriale. E per noi, per esempio, un valore, un elemento fondante della nostra identità, della nostra cultura come patrimonio immateriale è appunto il Mediterraneo, un luogo geografico, un mare che tra le terre, che ha costituito la culla di tante importanti civiltà che sono parte della nostra storia e della nostra identità. E queste civiltà hanno creato anche il concetto di spazio pubblico. Pensiamo all'Acropoli greca, pensiamo al Foro Romano, pensiamo alla Piazza Rinascimentale. Quanto questo elemento è ancora importante per la nostra identità, la nostra cultura, e quanto il Mediterraneo abbia costituito un luogo di incontro, di scambio, e quanto ancora oggi sia importante preservare questo valore, questa attitudine all'incontro e allo scambio. Certo, parliamo degli appuntamenti nel weekend, partiamo da venerdì. Sì, abbiamo la chiusura di quello che è la sessione del festival dedicata specificamente alla sponda sud del Mediterraneo, in cui presenteremo due lavori. Uno è quello di Seyfedine Manai in Piazza San Francesco, che è un artista tunisino, che è un lavoro molto fisico. Seyfedin era stato al nostro festival nel 2012 con un lavoro che raccontava la primavera tunisina. Abbiamo poi invece in Cappella Farnese alle ore 18, quindi un'ora prima, un lavoro molto particolare di Radouane Mriziga, che è un coreografo marocchino che opera a Bruxelles, che presenta Senkan Senk 55, che è un lavoro che dura 55 minuti, dove lui costruisce col proprio corpo un'architettura dello spazio e la compone graficamente, con la coreografia e con anche proprio un disegno architettonico che si materializzerà all'interno della sala della Cappella Farnese. E abbiamo poi il progetto How to Destroy Your Dance di Collettivo Cinetico, che viene presentato al Chiostro di San Martino. Questo è uno spettacolo serale alle 21, dove avremo la possibilità di vedere appunto 9 performer che lavorano verso la direzione di distruggere un dispositivo coreografico per far emergere, diciamo, la danza più meno scritta, meno coreografata. E abbiamo poi invece sabato 3 appuntamenti, che sono Ultras e Sleeping Dance alla mattina all'Orto Botanico dell'Università di Bologna in via Irnerio, dove Cristina Rizzo presenterà l'ultimo appuntamento di questi 4 incontri con questa coreografia che di volta in volta abita e attraversa spazi e situazioni diverse. Avremo la replica di Collettivo Cinetico al Chiostro di San Martino sempre alla sera, e al pomeriggio alle 18.30 abbiamo un lavoro che è l'esito di un percorso realizzato da Francesca Penso e il coreografo Said Ait El Moumen, un coreografo tunisino, con delle donne migranti. E l'esito del progetto Migrarti, sostenuto dal Ministero, e presenterà appunto un lavoro di danza in cui 15 donne migranti raccontano in qualche modo la loro esperienza, il loro vissuto, con uno sguardo appunto esclusivamente femminile, insomma. E in queste due giornate conclusive al Mambo continua la proiezione, la possibilità di vedere 3 video che abbiamo presentato nei giorni precedenti al festival, che sono un documentario, Les Amoureux des Banques Publiques, La Rue qui résiste avec l'art, La strada che resiste con l'arte, che è un documentario sulla Tunisia degli anni 2015-2016 e di quanto appunto l'arte abbia contribuito e contribuisca a fare resistenza civile rispetto a, come dire, alle influenze di fondamentalismo e forme illiberali che in qualche modo attraversano la Tunisia. L'altro video è Sassidio of a Spectacle, che è invece un video di 2 performer artiste iraniane che performano nello spazio pubblico. Come dicevo prima, lo spazio pubblico in Iran è fortemente regolamentato, disciplinato, soprattutto l'esposizione del corpo, ancor di più per le donne, e naturalmente la danza è un'arte proibita, quindi questo è un video arte sicuramente molto interessante. E poi abbiamo il video danza Dancing Around the World di Nejla Yakin, che racconta il viaggio in 32 città del mondo, sviluppato in 2 anni da questa artista turco-tedesca che vive da tanti anni in America e che tra le 32 città attraversate nel 2015 è stata proprio in residenza qui a Bologna al Festival Danza Urbana come unica tappa italiana, e quindi ci faceva piacere appunto mostrare questo, che è un video estremamente interessante, ha ricevuto anche molti premi e che ci permette di vedere il racconto di come la danza cambia, muta da città a città, da contesto a contesto, attraverso i vari continenti. Ultimo appuntamento è invece fuori Bologna, andiamo in collina, andiamo nell'area archeologica di Monte Bibele, nel comune di Monterenzio, con una giornata dedicata alla natura, all'archeologia e alla danza. Quindi ci saranno delle visite guidate all'area archeologica, ci sarà la presentazione di una creazione site specific del gruppo FREN, che è un gruppo di giovanissimi performer di Bologna, e poi verrà offerto dalle aziende del territorio un momento conviviale con un aperitivo per tutti coloro che verranno su a Monte Bibele per questa giornata.